Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, finalmente l'Europa sembra essersi svegliata. La tassa sulle banche arriva finalmente a colpire chi detiene la ricchezza e in qualche modo anche a punire chi ha provocato i dissesti finanziari degli ultimi mesi e per di più hanno avuto fondi pubblici per non fallire. I soldi vanno presi dove ci sono, senza aumentare ancora le già troppo alte imposte sulle persone. L'unico rammarico è costituito dal fatto che questa imposta, peraltro finora solo promessa, arriva a colpire i banchieri dopo che questi si sono già messi in tasca compensi certamente sproporzionati al loro lavoro. Filippo. Caro Filippo, mi permetta di non essere d'accordo, ma non tanto per difendere i banchieri quanto per difendere la logica e in qualche modo anche il buon governo. Gli stati non sono dei novelli Robin Hood che rubano ai ricchi per dare ai poveri. Compito dello Stato deve essere quello di facilitare l'attività economica e di garantire la redistribuzione e l'equità. Ebbene, almeno in Italia, le banche pagano già le tasse in misura anche maggiore di quanto avvenga negli altri paesi e non hanno avuto alcun sostegno pubblico a fondo perduto. Certo, ci sono stati i Tremonti Bond che alcune banche hanno sottoscritto per rafforzare il proprio capitale, ma pagando su questi i normali tassi di interesse. E peraltro, non dimentichiamo che la ricchezza delle banche è costituita dai fondi depositati dai clienti e dal patrimonio conferito dagli azionisti. Ebbene, tutti noi in qualche modo abbiamo interesse a che il sistema bancario sia efficiente, competitivo, in grado di fornire servizi a basso costo. Una nuova imposta andrebbe nella direzione opposta. Su di un solo punto mi sento di essere d'accordo. I dirigenti delle banche guadagnano molto, forse troppo, ma hanno comunque saputo consolidare un sistema che ha attraversato e sta attraversando una delle crisi più difficili. E peraltro, questi lauti stipendi sono alla luce del sole e su questi, ovviamente, si pagano tutte le tasse. Resta il fatto che certi compensi sono veramente troppo alti, ma dovrebbero essere le stesse banche a porre non tanto un limite, quanto un maggiore equilibrio. L'aver portato l'età pensionabile delle dipendenti statali da 60 a 65 anni ha creato la solita polemica insulsa, destinata a spegnersi nel giro di pochi giorni e nella quale si perde di vista il nocciolo della questione. A parte la consueta dose di vittimismo che inquina ogni discorso relativo ai problemi della condizione femminile, si è venuta a creare una distinzione manichea fra le donne che hanno avuto figli e che, poverine, si devono riposare fra i 60 e i 65 anni, e le donne che non hanno procreato e che quindi possono continuare a lavorare in quei 5 anni. Non credo di aver mai sentito una teoria più sciocca. Una donna ha bisogno di tempo e quindi di sospendere il lavoro quando ha i figli piccoli, grosso modo fra i 30 e i 40 anni, e non certo a 60 anni. L'allungamento dell'età lavorativa dovrebbe essere quindi compensato dall'allungamento dei periodi di congedi per maternità pagati, passando ad esempio dagli attuali 5 mesi ad un intero anno per tutte le madri, siano esse impiegate nel pubblico che nel privato, o come capita sempre più spesso, occupate in lavori precari. In questo modo ne trarrebbero beneficio sia la singola famiglia che la collettività. Invece, quando si è sulla soglia della vecchiaia, essere impegnata in un lavoro non usurante, quale di solito quello delle impiegate statali, è la prima medicina contro l'inevitabile malinconia che prende tutti coloro che si rendono conto che il bello della vita è ormai alle spalle. Lavorare significa essere obbligate ad uscire, a confrontarsi con gli altri, ad essere informate, significa avere un proprio profilo professionale, una propria autonomia, insomma, in una parola, a vivere come le quarantenni e le cinquantenni senza l'assillo di figli piccoli o adolescenti. Quindi perché non rilanciare? 2 anni di congedo pagato per ogni figlio e donne che lavorano fino a 67 o 70 anni in lavori non usuranti e basta fare le vittime. Laura, lavoratrice 65enne. Caro direttore, ho sentito la sua risposta alla lettera di un ascoltatore in merito all'uso improprio dell'avverbio piuttosto che. Ho 62 anni, ho conseguito nel 1969 uno stentato diploma di perito meccanico. Era il primo anno che entrava in vigore la riforma scolastica dell'allora ministro Ferrari a gradi, che abolì gli esami di riparazione. Non c'è bisogno di essere laureato in discipline umanistiche per affinare il proprio linguaggio. Se un attimo è una frazione di secondo, con che cosa lo misuriamo l'attimino? Quando parlo con i miei due nipotini, dico lavastoviglie oppure lavabiancheria e non lavatrice. Mi sforzo di dire automobile oppure vettura e non macchina. Ritornando al piuttosto che, se l'errore lo fa un tronista, lo perdono. Ma se lo fa uno dei tanti nutrizionisti che imperversano nelle trasmissioni televisive, mi incavolo. Nicola. Da due mesi questo mondo politico ha focalizzato il proprio lavoro su un decreto che sicuramente potrebbe essere cassato, come già accaduto in passato con cose simili, dalla Corte Costituzionale, se non prima ancora dal Presidente della Repubblica. Il paese sprofonda in un mare di guai e il tempo va sprecato con una leggina che assicura l'impunità di pochi a scapito della conoscenza di tutti. Decreto blindato si vota così com'è. Dopo due giorni non è più blindato, ci sono cosette da sistemare ancora, dettagli per fare ancora più casino, distinguo che fanno impazzire ancora di più chi dovrà poi attuare nella pratica quotidiana il lavoro di ricerca di verità e responsabilità. Alla faccia del processo breve e delle riforme della giustizia, tanto strombazzate e mai attuate. Risultato di tutto questo trambusto sembra che non passi l'esame di giugno, come uno scolaretto delle medie, e che debba ripetere a settembre. Se questo è l'andazzo del fare, era meglio quando andava peggio. Massimo. Certo, Berlusconi come capo del governo ha le sue responsabilità, ma ho l'impressione che tutti, stampa compresa, finiscano col perdere di vista che facendo credere che tutto il male dipenda da quel personaggio, attraverso la loro politica della chiacchiera, del gossip, della contrapposizione brutale, senza mai entrare nei mali gravissimi che attanagliano la politica in generale, non facciano altro che contribuire ad affondare il paese. E non mi sembra un buon risultato. Questo accade quando si perde di vista il bene comune. Ma come possiamo conoscere il bene comune se diciamo che non esiste verità? Claudio. Vorrei proporre un argomento che quasi mai nessuno affronta. La condizione dei militari italiani, unica categoria che non ha diritto ad una rappresentanza sindacale, cosa riconosciuta in tutta Europa, Grecia e Portogallo a parte. I militari sono stati e sono tuttora vittime di ingiustizie. Vedi manovra finanziaria, nella quale sono proposti tagli molto consistenti in busta paga. La cosa naturalmente passa in silenzio, dato il mutismo a cui sono costretti i cittadini in oggetto. La Costituzione su cui i militari giurano recita che tutti i cittadini sono uguali, senza distinzioni. Roberto. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.